E adesso riapro di nuovo il microfono al compagno per una puntualizzazione che insomma ogni tanto ci arrivano anche delle critiche sui social network. Noi preferiamo sempre che, ok, le critiche vanno bene, ma che ci chiamino almeno al numero, così anche il diretto interessato può direttamente interloquire o in privato o eventualmente anche in diretta con il filo diretto appunto con chi stava dicendo quelle cose. Quindi vai per una puntualizzazione. Eh sì, il discorso è proprio quello a cui accennavi tu. Noi il numero, il nostro numero di telefono lo diamo sempre, invitiamo sempre a intervenire, per cui anche per correggerci e per criticarci, perché dai nostri errori noi impariamo sempre quando li commettiamo, e se qualcuno ce li fa notare ne siamo felici, no, ma insomma perché poi non fa mai piacere a nessuno, sarebbe ipocrita dire così, però lo accettiamo perché sta nelle cose, sta anche in come siamo fatti noi, mettiamola così. Allora, il commento che ci è stato segnalato su Facebook è di una persona che dice stamattina, è riferito a sabato mattina, quindi l'altro ieri, la rassegna stampa dell'altro ieri, che in particolare l'ho condotta io. Sei proprio chiamato in causa? Sì, sono proprio chiamato in causa, quindi devo, mi sento di dover rispondere. Dice: da ascoltatore saltuario della radio sono abituato a commenti a volte improvvisati o poco curati, motivati da quel populismo che è la marca tipica di alcuni collaboratori storici di Radio Onda Rossa. E questo è l'inizio. Dice però, insomma, poi io ci sono affezionato alla radio e comunque e quindi la sento ogni tanto. Dice: oggi invece succede che il tipo, che sarei io, nel tentativo di mostrare il suo scetticismo nei confronti della versione ufficiale sulla prevenzione sismica, rispolvera la famosa teoria del radon che balenò tempo fa in occasione del terremoto dell'Aquila per spiegare le presunte motivazioni per le quali sarebbe stato possibile prevedere la scossa sismica, ma la lobby dei geologi e degli ingegneri dell'INGV non si è prodigata a farlo. Il tutto facendo seguire ad una suggestione del genere decine di esempi e consigli ridicoli, come analizzare il comportamento degli animali, non ci vuole molto, la tecnologia non serve, queste cose che avrei detto io, motivati solo dalla credulonità del commentatore in materia. Dice: ora riporto questo commento perché mi pare emblematico del modo con cui certi compagni si relazionano con la scienza e con le problematiche pratiche legate alla tecnica. E poi fa altri commenti, insomma, anche una conclusione che risparmio perché sarebbe troppo personale, insomma, la leggo via, ma conclude così. Anche perché il post è pubblico, quindi si può anche rintracciare su Facebook. Sì, no, ma io non faccio il nome, tra l'altro non lo conosco, quindi non so, dico questa persona, magari poi se sta ascoltando lo invito a chiamare, oppure se qualcuno lo conosce glielo può segnalare e così via. Dice: ma il problema è come al solo pratico, come possono persone che dicono cose così campate in aria, con tutto l'affetto e l'amicizia umana che si può provare nei loro confronti, pretendere seriamente di voler cambiare la società alla radice? E quindi, insomma, da questo aspetto ne conclude anche, insomma, una valutazione di carattere generale. Allora, io per quanto mi riguarda posso dire questo: io con la ricerca ci ho avuto a che fare, sono stato ricercatore molti anni fa, ho avuto sempre a che fare con problemi scientifici perché era la mia professione, io sono fisico nucleare, quindi insomma quando dico certe cose mi documento. Se ho parlato ho parlato sì del comportamento degli animali, non ho detto che non ho nominato proprio che la tecnologia non serve, ho parlato di certe indagini sul territorio, di monitoraggio del territorio con delle neanche tecniche, ma delle metodologie che non richiedono l'impiego di apparecchiature sofisticate. E in questo mi riferivo esattamente a che cosa, perché mi sono documentato e lo faccio sempre, a un questionario che, per chi vuole cercarselo, lo trova facilmente su internet, in particolare nel sito del comune di Bagni di Lucca, che è una zona classificata 1 perché Bagni di Lucca sta in Garfagnana, che è una zona estremamente sismica. Lo trova nel sito della provincia di Perugia e in quello del comune di Spoleto, anche quello, il comune di Spoleto, classificato in zona 1 perché estremamente sismico. Questo questionario si intitola La terra ti parla, impara ad ascoltarla, ed è sponsorizzato ovviamente dal comune di Lucca, dalla protezione civile di Bagni di Lucca, dalla Croce Rossa Italiana e dall'Istituto Nazionale di Geofisica. Che cosa contiene questo questionario? Ovviamente non ve lo leggo tutto, ma solo per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Il questionario è composto, dove si invitano chi è residente in quel territorio e ci lavora per diversi motivi, fa una certa attività di qualunque tipo, si invitano le persone a riempirlo, ovviamente segnalando nome e cognome, insomma è un questionario serio, non è tanto così per ricevere punti omaggio di qualche cosa, ed è composto da 20 domande, di cui le prime 10 riguardano il comportamento degli animali. Hai notato un comportamento diverso dal solito nei tuoi animali d'allevamento? Se sì, a quale tipologia più assomiglia tra le seguenti? Le galline che non smettono improvvisamente di fare le uova, galli e galline che non rientrano a un certo punto, oche, anatre, criceti, uccelli, uccelli domestici e così via. Dopodiché si passa anche agli animali selvatici, laddove questi esistono su quel territorio, e infine c'è una parte che riguarda viceversa fenomeni attinenti a modificazioni superficiali o subsuperficiali sia del terreno, quindi l'apertura di spaccature, fori, fango, sabbia o argilla nei prati, hai osservato ultimamente fratture o grandi dislivelli su strade asfaltate, effetti o fenomeni sulla vegetazione, hai osservato ultimamente particolari zone del terreno, bosco, campo coltivato e così via, e anche per quanto riguarda per esempio le sorgenti, se si esauriscono delle sorgenti, se ci sono emissioni di gas, se hai effetti o fenomeni su fluidi, falde e manifestazioni gassose, hai percepito un odore, insomma tutta questa che io ho chiamato sintomatologia, per usare un termine, perché se io voglio sono perfettamente in grado di usare termini scientifici, ma parlando per radio cerco sempre di usare delle terminologie più comprensibili, più facili anche all'ascolto, proprio per non infastidire e tra l'altro anche per non darmi un ruolo particolare. Quindi tutto ciò che io ho detto in rassegna stampa sabato era riferito esattamente a questo, che è un questionario benedetto, usiamo questa parola, uso questa parola, anche dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, che tra l'altro, insomma, il geologo che abbiamo sentito proprio pochi minuti fa ha confermato come aspetto, e cioè quella che in termini più scientifici si chiama la sismogeochimica, e anche il comportamento degli animali, dove per sismogeochimica ci sono tutti questi fenomeni di modifica delle falde, spaccature del terreno, fenomeni superficiali, emissioni di gas, eccetera, eccetera, insieme al comportamento degli animali costituiscono un insieme di fenomeni associabili o associati al terremoto che possono aiutare, ovviamente qui ci verranno gli anni, nessuno ha la bacchetta magica, ma la ricerca è fatta di queste cose, che potrebbero o possono costituire, diciamo così, un insieme di rilevamento di dati che vanno nella direzione in cui lo stesso geologo che abbiamo sentito diceva, ovviamente, che si chiama previsione dei terremoti, e laddove l'attuale conoscenza, come diceva il geologo che abbiamo sentito, è sufficiente per individuare le località, le zone più a rischio, il quando è tutto da costruire, ma che fa assolutamente parte di quella che è l'atteggiamento della comunità scientifica internazionale, non solo italiana, per cui insomma io mi sono attenuto a questo, e quindi invito e concludo insomma la persona che ha scritto questo post su Facebook di non banalizzare le cose, anzi di documentarsi, perché io mi documento, perché sono fatto così e perché l'ho sempre fatto nella mia professione, quindi di documentarsi prima di dire certe cose e soprattutto di telefonare qui in diretta, perché non c'è nessun problema, insomma questo chiarimento potevamo farlo tranquillamente in diretta.